X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giorgia Meloni, 37 anni, nata a Roma da padre sardo e mamma siciliana, diplomata presso l'Istituto Professionale Alberghiero Amerigo Vespucci dal 2006 e giornalista professionista, 15 anni, aderisce al Fronte della Gioventù a 20, responsabile nazionale di Azione Studentesca. Nel 2001, Fini, la nomina presidente di Azione Giovani, a 31 anni diventa la più giovane parlamentare della 15esima legislatura, 31 e ministro della Gioventù del quarto governo Berlusconi. Oggi è presidente di Fratelli d'Italia, partito che ha fondato con Ignazio La Russa e Guido Crosetto. Allora, onorevole Meloni, con La Russa e Crosetto, innovazione e continuità? Beh, tra la tradizione della destra italiana con il simbolo d'Alleanza Nazionale e l'innovazione rappresentata dall'esperienza di Fratelli d'Italia. Senta, Fini dice che voi di Fratelli d'Italia siete solo dei bambini viziati, le ha fatto effetto, no? Beh, un po' sì, perché noi in realtà, come ho già risposto, siamo stati ragazzi che sono dovuti crescere in fretta, come sempre quando a un certo punto non ti trovi più un padre. Sono stati abbandonati dal padre. Ma chi è stato Fini per lei? Beh, sicuramente un punto di riferimento, sicuramente una persona alla quale devo moltissimo in termini personali. E quando ha pensato che ha cominciato a sbagliare? Quando ha cominciato a picconare un partito che lui aveva voluto come il Popolo della Libertà, non ponendosi il problema che rischiava che sotto le macerie ci rimanessero anche i suoi. E anche lui. Questo è secondario, io mi preoccupo più della comunità di solito. Senta, voi avete rimesso però la fiamma nel vostro simbolo, lo accennava. Perché? Beh, perché vogliamo legare una storia, perché cioè una vogliamo richiamarci a una identità. Non è una ricerca, è una conferma delle radici. Insomma, sì, certo. Una conferma delle radici. Certo, vogliamo dare una continuità a quella storia e ridare una casa a quella comunità. Ma perché non si può vivere senza radici, questo è il punto. Beh, sicuramente, diciamo, senza radici non ci sono frutti, come sempre, perché c'è troppa, in questo tempo della politica, c'è troppa superficialità e rischiano di perire le idee. Lo scontro è su un livello assolutamente lontano da quello che dovrebbe essere, cioè un livello di confronto tra valori. Ma se lei dovesse definire rapidamente, in sintesi, le sue di radici, mi dice uno spot sulle sue radici? Beh, le mie sono le radici tradizionali della destra, sono radici comunitarie, identitarie, spirituali, sono le radici di qualcuno che si lega a una dimensione comunitaria dell'esistenza e cerca di andare oltre se stesso ogni giorno. Senta, però i vecchi simboli nel logo non hanno portato fortuna a nessuno, né alla DC né al PC. La fiamma spera che la porti. Beh, se si ripropongono tal quali non portano fortuna. Se si cerca di dare a loro anche un'evoluzione, come facciamo noi con Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, pensiamo che qualche frutto possa darlo. Senta, ma che cosa l'ha convinta a far politica? Mi ha convinto la strage di Via D'Amelio, la strage che ha ucciso il giudice Paolo Borsellino dopo quella che aveva già ammazzato perché? Giovanni Falcone, perché ho pensato davanti a quel telegiornale che non si potesse rimanere a guardare, che bisognasse fare qualcosa. Senta, ma è giusto fare politica come professione? La politica non è una professione, quando la interpreti come una professione è quando smetti di fare politica e quando dai il via a tutte le degenerazioni della politica. Non si deve mai pensare di vivere di politica per il resto dei propri giorni. Mai. Lei cosa vivrebbe? Di che cosa vivrebbe? Io sono giornalista professionista, spero un giorno di riuscire a fare la professione, vorrei fare la radio, pensi. Ah, va bene, chissà, faremo a cambio. Senta, ma è vero che per mantenersi da giovane ha fatto anche la babysitter a casa di Fiorello? No? Assolutamente sì, ho fatto lavori di ogni genere e vado assolutamente fiera. Senta, ma è a casa di Fiorello? Fiorello era simpatico come sul palco? Non l'ho o meno? Praticamente mai incrociato, ah, io no. Ho sempre incrociato la mamma. Quando lui usciva? Sì, esattamente. Senta, adesso la vostra campagna elettorale per le europee è legata al rilancio del tricolore, cioè Italia contro Europa? Italia in Europa, noi pensiamo che la sfida delle prossime elezioni europee sia la sfida di rappresentare un'Italia orgogliosa e fiera in Europa e non un'Italia che in Europa va a prendere ordini come ha fatto la classe politica italiana negli ultimi anni. Senta, Marine Le Pen in Francia, con i messaggi dell'ultranazionalismo del Fronte Nazionale, è data al 24% nei sondaggi. È in qualche modo un suo modello, Marine Le Pen? È sicuramente una persona interessantissima che io ho incontrato, che sta facendo un ragionamento sul quale ci sono molte convergenze con Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, anche se insomma... Cosa le piace di più di Marine Le Pen? Allora? Mi piace molto questo nuovo bipolarismo che lei cerca di costruire tra l'alto e il basso, cioè tra i diritti dei popoli e gli interessi delle oligarchie, una cosa nella quale mi ritrovo molto. E di meno? Beh, per esempio, alcune posizioni del Front National, loro sono ad esempio a favore della pena di morte, è una cosa che io non condivido. Senta, onorevole Meloni, in concreto, la Le Pen dice però, butto Schengen nella spazzatura, cioè voglio di nuovo le frontiere nazionali, anche lei? Beh, il tema delle frontiere nazionali è un tema interessante e importante, non vuol dire non avere un'Unione Europea, vuol dire in qualche maniera distribuirsi anche le responsabilità, perché vede, noi abbiamo fatto Schengen, ma la verità è che poi, mentre noi accogliamo tutti gli immigrati, i francesi, i tedeschi, tutti quanti gli altri chiudono le frontiere, noi siamo stati abbandonati. Ce ne sono tanti in giro per l'Europa. Beh, ce ne sono tanti, però la normativa europea dice che un richiedente asilo deve essere accolto nella prima nazione che incontra e non può girare liberamente negli altri 27, che senta, capisce? È un po' discriminatorio per noi. E allora? E per chiudere le... Schengen? Non sono per buttare Schengen né per tenere Schengen, sono per rivedere una politica migratoria dell'Unione Europea che per ora ha lasciato l'Italia da sola di fronte al problema. Senta, perché l'Europa non può far finta che il problema sia solo italiano. Lei dipinge l'Europa, l'ha detto lei, come una cattiva matrigna, più attenta all'interesse delle lobby che dei popoli, un po' l'ha detto, ma per lei è così che si fa e bisogna uscire dall'euro per risolvere questo problema? Beh, guardi, qualcuno sostiene che l'euro serve per salvare l'Europa. Io penso che se vogliamo salvare l'Europa dobbiamo invece tornare indietro rispetto all'euro. La nostra Tornare indietro vuol dire uscire per lei. La nostra posizione è una posizione di scioglimento concordato e controllato della zona euro. Secondo i principali analisti l'euro è una moneta destinata a crollare e alcuni istituti finanziari già stanno, diciamo, correndo ai ripari. Penso che debbano correre al riparo anche gli stati nazionali, altrimenti ancora una volta si salveranno solo le banche. Allora, lei dice fuori dall'euro in modo concordato. Dato per tradurlo che si capisca sì, bene. Io dico una risoluzione per uno scioglimento concordato di tutta l'area euro. Con tutta l'area euro. Con l'euro. Torniamo indietro rispetto a una moneta che ha fatto solo l'interesse della Germania, perché noi non abbiamo mai fatto una moneta unica. Noi abbiamo adottato il marco tedesco e abbiamo una moneta troppo forte per la nostra economia. Lo sa che ci sta dissanguando. A pensare il contrario. Sì, sì, sono anche tantissimi che la pensano come noi, compresi 7 premi Nobel all'economia, che insomma qualcosa di più di me ci capirà. Senta, intanto per l'Italia era di nuovo emergenza sbarchi, stavamo accennandolo. Più o meno lei dice è colpa dell'Europa, però ha detto anche spesso e con forza è colpa di Alfano. Perché? Beh, è colpa del governo che ha pensato di affrontare il problema abolendo il reato di immigrazione clandestina. Particolarmente me la prendo con quelli che il reato di immigrazione clandestina l'avevano introdotto, quindi Alfano, ma diciamo anche che ha votato la cosa anche Forza Italia, l'abolizione, certo. Il che è molto curioso, e perché il ministro Alfano, che oggi dice che l'Italia è stata abbandonata dall'Europa, dimentica che è stato lui a mettere la firma sull'aggiornamento degli accordi di Dublino, che sono quelli che prevedono le norme sui richiedenti asilo. Ecco, ma con i respingimenti cosa si fa? Allora, Mare Nostrum vuol dire di qui non si passa invece che accogliere, cioè Mare Nostrum barriera. Non significa di qui non si passa. Mare Nostrum sto dicendo, deve significare secondo lei di qui non si passa? Beh, guardi, io una penso barriera preventiva. Io penso che noi dobbiamo dare il segnale che l'Europa non è in grado di accogliere 800 milioni di africani che potenzialmente potrebbero ritenere di stare meglio da noi. Ecco, ma che cosa si fa allora? Si fa cooperazione internazionale allo sviluppo, si fanno accordi con i paesi dai quali questi disperati partono. Ci vuole del tempo. I governi di centrodestra l'avevano ampiamente fatto. Poi certo, se si decide di fare il contrario, si abolisce il reato di immigrazione clandestina dicendo non vi preoccupate che qui c'è una soluzione per tutti. E apriamo e chiudiamo parentesi, soluzione che noi in moltissimi casi non siamo in grado di dare, perché certo, la vogliamo dire che non è solidarietà far entrare in Italia chiunque e poi metterlo nelle mani della criminalità organizzata, non no, quindi dubbio. Si poteva fare in maniera diversa. Senta, però io non ho capito se questo Mare Nostrum va mantenuto oppure va Mare abolito. Mare Nostrum è un'operazione che va abolita, non serve a niente, ci fa buttare milioni e milioni di euro per mettere le mani della nostra, le navi della nostra marina militare a fare il traghetto per aiutare gli scafisti. Senta, Grillo dice, io sono oltre Hitler, che effetto ne fa? Mi fa l'effetto di uno che sta facendo la campagna elettorale tentando disperatamente di rilanciare se stesso e avendo già sparato diverse bagianerie non sa più che cosa dire. Senta, adesso Grillo questa sera va da Vespa. Lei se l'aspettava Grillo a Vespa? No, la considero, devo dire, un'importante normalizzazione di Vespa Grillo. O di Grillo? No, di Vespa assolutamente fa il suo lavoro e assolutamente una normalizzazione di Grillo. Evidentemente questa televisione che tanto vituperata alla fine serve per prendere i voti. Sì, quindi sarà un Grillo inedito. Penso di sì, adesso poi vediamo che cosa si inventerà. Però io avrei una, se fossi Vespa, avrei una domanda da fare a Grillo. Gli vorrei chiedere, scusi Beppe Grillo, ma non le dispiace di avere da un anno un terzo dei senatori e un quarto dei deputati e non aver portato a casa un provvedimento che potesse migliorare la vita degli italiani? Glielo farà sicuramente, speriamo. Grande professionista in Europa. Comunque, dopo le elezioni, i grandi raggruppamenti saranno due, il PPE o il PSE. Tanto per cambiare. Ecco, lei dove si mette, se ci riesce ad arrivare? Ci riesco ad arrivare e voi non continuate a farmi muro perché tutti i sondaggi dicono che ci siamo già arrivati, quindi siamo assolutamente ottimisti. Vedremo quali sono le famiglie in campo. Sicuramente non staremo nel PPE, nel PSE, e anzi, quelli che oggi vanno in televisione a dire basta con l'Europa a trazione tedesca e poi stanno o nel PPE o nel PSE stanno mentendo gli italiani. Devono dire che sia il PPE e il PSE sono governati dai tedeschi e quando si vota per questi partiti si fa gli interessi della Germania. Gliel'ho chiesto perché l'intellettuale francese De Benoit dice che a destra del PPE ci sono solo gruppi e movimenti che non hanno capito il momento storico in cui viviamo. Quindi difficile. A me viene difficile immaginare lei, insomma, che il PPE e il PSE abbiano capito il momento storico nel quale ci troviamo, perché se lo hanno capito lo hanno anche utilizzato molto male, stante che sono quelli che hanno votato insieme l'80% dei provvedimenti in questi anni e quindi sono esattamente l'establishment dell'Europa che sta ammazzando i popoli. Senta, nella società globalizzata sempre più diseguale, l'ascensore sociale si è inceppato, cioè distribuzione di ricchezza in realtà neanche in quote percentuali non avvengono. Perché secondo lei? Perché non c'è meritocrazia, perché l'Italia è una nazione bloccata dalle rendite di posizione e dai privilegi consolidati. Ma c'è qualcosa di delittuoso però nel modo in cui si lascia morire la classe media, perché poca meritocrazia c'era anche prima, non è che è una novità. Assolutamente sì. E quindi, ma però prima cresceva la classe media, adesso invece muore. Perché ovviamente quando c'è maggiore povertà, chi era ricco tende a isolarsi ancora di più e la povertà dilaga tra chi era nella via di mezzo, diciamo. Ma per così. Lei essere stata al governo con Berlusconi è stato un errore o no? No, io ho fatto del mio meglio quando sono stata ministro con Berlusconi, e perché nonostante tutto quello che noi abbiamo dimenticato rispetto ai governi che hanno succeduto il governo Berlusconi ha fatto 10 volte tanto. Senta, e soprattutto non si è piegato ai diktat di qualcun altro, come hanno fatto poi Monti, Letta e anche Temo Renzi. Senta, ma Berlusconi oggi è ancora determinante? Lo vedremo in questa campagna elettorale. Grillini propongono una commissione d'inchiesta sul presunto complotto per far cadere il governo Berlusconi del 2011. Lei è d'accordo con la commissione d'inchiesta? Mi pare che l'abbiano proposta in realtà quelli di Forza Italia. Sono assolutamente d'accordo. Senta qua, questo servizio che abbiamo trovato nel TG7 di molto tempo fa. Hans Werner Sinn, considerato dal Financial Times il migliore economista tedesco, nonché uno degli uomini più influenti del suo paese. Lo precisiamo perché le sue dichiarazioni danno dell'incredibile. Sinn, ad un convegno della Süddeutsche Zeitung, ha detto: Berlusconi, nel novembre del 2011, quando era premier, avviò trattative in sede europea per fare uscire l'Italia dall'euro. Avvalorando quindi quella tesi che vuole che Napolitano abbia chiesto a Berlusconi di farsi da parte su pressione dei poteri forti europei. Vago concetto che di solito include la Germania, la Francia, la Commissione e la Banca Centrale Europea. Una cosa è certa, quel che avvenne nell'autunno del 2011 è un capitolo poco chiaro della storia recente. Ne parlavate al governo? No, non ne parlammo al tempo, anche se poi quando Berlusconi decise di dimettersi e di dare vita al governo Monti, io fui quella che forse più si batté contro la nascita del governo Monti, perché era evidente quanto fosse un commissariamento della nostra democrazia. Vede, noi ma non sospettava ricordiamo qualcosa di così definito e radicale? Beh, ma lo sospettavamo certo, perché c'era un elemento che non si è mai ricordato in Italia, che non è che lo spread è arrivato. E Fini faceva parte del complotto, no? Ma non lo so adesso, io non ho idea. No, non ne ho idea, sinceramente. Posso dire però che era chiaro il complotto dell'estero, certo. Nel senso che quando la Deutsche Bank ha venduto in pochi giorni tutti i titoli di Stato italiano facendo schizzare lo spread, era evidente che fosse un'operazione pilotata. Senta, lei ha detto che l'Italia deve essere rivoltata come un calzino e di certo questo non si fa con una maggioranza eterogenea. Ecco, sì. Ma allora con quale maggioranza? 51% a lei? No, 51% a me se lo prendo. Semplicemente con leggi elettorali, leggi elettorali che favoriscano maggioranze coese e quindi bipolariste possibilmente, perché io non mi sono, diciamo, rassegnata all'idea del bipolarismo finto tra due forme d'avanspettacolo, quella di Renzi e quella di Grillo, e quindi spero nella difesa del bipolarismo in una legge elettorale che favorisca la governabilità dando a chi vince il 55%. Ci crede all'accordo fra Renzi e Berlusconi, reggerà o no secondo lei? All'impatto. È un accordo di interesse, funziona fino a quando tutte e due i contraenti mantengono un interesse. Certo, quindi, non può essere un accordo fatto nel contenuto, perché il contenuto è pessimo. E quindi Berlusconi che dice non ho potuto governare perché c'avevo i piccoli partitini, cioè c'avevo queste maggioranze un po' eterogenee, non ha tutti i torti? No, su questo non sono d'accordo. Il problema dei piccoli, come Berlusconi sa benissimo, il problema delle sue maggioranze non sono stati i piccoli partitini, ma i parlamentari ribaltonisti, spesso eletti nei grandi partiti, che si sono venduti per passare dall'altra parte. E questo è il vero problema da sempre della democrazia italiana. Tant'è che noi dovremmo fare una norma che fa decadere chi si fa eleggere con un partito e decide di passare con un altro. Ma Berlusconi è stato vittima della persecuzione della magistratura oppure no, secondo lei? Beh, Berlusconi è sicuramente stato attenzionato molto più di qualunque altro cittadino dalla magistratura. Attenzionato in italiano cosa vuol dire? Attenzionato in italiano significa che la magistratura è stata particolarmente attenta alle vicende di Berlusconi. Diciamo che ha speso molte energie a dimostrare che Berlusconi, a tentare di dimostrare che Berlusconi fosse... Ma lo scontro che è in atto nella Procura di Milano per lei è il segno di un malessere o di che cosa? Beh, sicuramente c'è qualcosa che non funziona anche nella giustizia italiana, bisogna dirlo. Sicuramente, del resto, sa, anche lo scontro tra una certa parte della giustizia italiana e una certa parte della politica italiana alla fine ha finito per indebolire tanto la magistratura complessivamente quanto la politica complessivamente, impedendo a entrambi di isolare i facinorosi. Senta, ma lei non ha mai pensato che se fosse stata fuori dal governo Berlusconi forse avrebbe potuto essere per il centrodestra quello che Renzi è stato per il centrosinistra, cioè la rottamatrice? Ma io non cerco mai di essere qualcun altro, sono Giorgia Meloni, ho fatto il mio percorso. Insomma, uno quando ho voluto rottamare, quando ho voluto rottamare, ho rottamato, ho fatto le mie scelte, che sono state anche scelte molto coraggiose, però devo dire non rimpiango niente. Mi dica la più coraggiosa che ha fatto. Beh, sicuramente quando a 40 giorni dal voto delle scorse elezioni politiche ho deciso di abbandonare il Popolo della Libertà e di fondare un movimento nuovo rischiando tutto, penso che questo si possa, diciamo, annoverare tra le scelte coraggiose. Certo. Senta, lei di Renzi ha detto, Renzi è una marionetta caricata a molla. Cosa vuol dire? Non è un po' no, dura? No, ma avevamo fatto un manifesto per scherzare sul tema della marionetta. Beh, io mi sono molto molto molto arrabbiata quando il Presidente del Consiglio Renzi il 17 di marzo, cioè il giorno nel quale, lei sa bene, celebriamo la nostra unità nazionale, invece di celebrare le ragioni che ci tengono insieme, è andato dalla Merkel a fare l'inchino alla Schettino portandogli il suo Jobs Act per chiedergli se poteva fare quelle riforme in patria. Non lo considero molto dignitoso. Ma non le piace nulla di Renzi? No, a me Renzi diverte moltissimo. Io trovo che Renzi sia un enorme, uno straordinario comunicatore. C'è solo il problema che tra quello che dice e quello che fa c'è una piccola differenza. Diciamo che a confronto delle sue conferenze stampa, quelle di Vanna Marchi erano delle lexio magistralis. Però è così. È da due mesi che sta lì. Ha promesso di tutto. E l'unica cosa che ha portato a casa e che ha fatto votare in aula sono l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, la depenalizzazione delle droghe e la vicenda degli 80 euro, sulla quale se vuole parliamo. Ma insomma, non mi sembra esattamente una grande operazione. È l'accordo sul lavoro. Beh, l'accordo sul lavoro no, la riforma del lavoro arriverà fra due anni. Quello che ha portato a casa è una modifica minima della durata dei contratti a termine, che peraltro metteva, diciamo, risolveva un problema creato dallo stesso PD che aveva votato una norma difforme, diversa, non più tardi di un anno e mezzo fa. Quindi se la cantano e se la suonano a casa mia. L'Expo doveva essere il fiore all'occhiello dell'immagine dell'Italia, dell'economia italiana. Con quello che sta capitando bisogna andare avanti lo stesso? Sì, bisogna andare avanti commissariando tutto il consiglio d'amministrazione con figure che possano essere totalmente specchiate e distanti dalla politica. Non basta da solo. Noi pensiamo che Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, pensa che bisogna commissariare tutto il CDA con il prefetto di Milano, un generale dell'Arma dei Carabinieri, un ufficiale del Genio Militare, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna togliere il controllo di Expo dalla politica, perché comunque le nomine sono state di natura politica e qualcuno si deve prendere la responsabilità, e perché anche il clima delle larghe intese non aiuta, diciamo, questa dimensione dell'inciucio e del volemo. La Guardia di Finanza dice che il 70% degli appalti sono truccati. Siamo condannati a una corruzione eterna, allora? se non mettiamo mano, diciamo, alla burocrazia che favorisce la diciamo, la complessità della nostra macchina pubblica, che è nata per favorire la corruzione, temo di sì. La prima sfida è la sfida della semplificazione. Senta, qual è il suo peggior difetto? Questa è una bella domanda. Forse una certa tendenza a non prendermi mai alla leggera. Prendo sempre le cose troppo sul serio. Cioè, troppo serio è un difetto? Non è troppo seria, è troppo alla fine si diventa ansioso. Troppo ansiosi, sì. Non mi prendo mai, cioè non dico mai, vabbè, ma chi se ne frega, ecco. Vabbè, mi sembra una qualità. Insomma, senta, ci si campa malissimo. Che cosa non sopporta mai di sentir dire di lei, invece? Non sopporto sentir dire di me che sono... mi dispiace molto quando la gente pensa che io sia antipatica, perché effettivamente quando sono concentrata faccio sempre una faccia molto seria, rannicchiata, sì, rannicchiata non è la parola esatta, accartocciata, e quindi tutti dicono ma questa è sempre arrabbiata, ecco, invece no, sono anche una persona, so essere allegra. Senta, lei alle politiche lo scorso anno non è andata benissimo, ha preso intorno al 2%. Il 2%, ecco. Però in 40 giorni, ragazzi, era un quindi, miracolo. E per l'Europa che obiettivo ha? Superare la soglia intanto, però penso che Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale potrebbe regalare qualche sorpresa in queste elezioni. Ma come vi finanziate? A Roma si dice coi debiti. Nel senso, no, ci finanziamo molto con l'autofinanziamento, molto con amici che ci fanno credito proprio anni e anni, e basta. Senta, onorevole Meloni, ma faccia una previsione: vince Renzi o Grillo? Credo che alla fine vincerà Renzi. Di misura. E Berlusconi che farà? Credo che non farà un risultato straordinario. Sopra o sotto il 20? Credo sotto. E se va sotto, secondo lei deve andare a casa? Ma guardi, io penso che Berlusconi debba avere il coraggio di lasciare il testimone a un'altra generazione già da diverso tempo. L'ho anche detto, l'ho dimostrato, ho fatto le mie scelte per questo. Senta, le faccio un'ultima domanda, onorevole Meloni. Lei ogni tanto dice di sentirsi come Don Chisciotte. Perché? Perché delle volte l'idea che tutto quello che fai possa non essere neanche lontanamente compreso e che comunque vada, il gioco è sempre farti uscire male, come se dovessi per forza essere una persona disonesta, eccetera, è qualcosa... Ma non è il suo caso, devo dire che in genere... Perché io la vedo dal mio punto di vista, e dal mio punto di vista vedo anche gli insulti che mi arrivano. Le pesa o la stimola questo atteggiamento? Mi pesa. Poi mi stimola anche, io sono una persona molto competitiva, però mi pesa soprattutto. Grazie. A lei. Mix 24 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666, l'SMS. Che titolo faresti, Mario, dell'intervista della Meloni? L'euro no, questa Europa no, Meloni sì. È quello che ha detto Pietrangelo. Giorgia nel solco di Giorgio. Ma si capisce. Se avete dell'interesse a dare un titolo anche voi che ci ascoltate, 800 24 00 24 oppure il numero, l'SMS 349 238 6666. Adesso andiamo un po' con la nostra musica metropolitana. Vivo solo col mensile di impiegato comunale, spacco lira, spacco soldo e mi spacco pure me. Mi arrovello, mi arrabatto per accontentare te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata. Allora? Allora c'è il rovello e l'arrabatto e poi il padrone di un caffè. Altri tempi, ma questi tempi di crisi mettono in crisi perfino l'amore. L'imperativo categorico è quello di volgere lo stupore in un stupisci. Agata, stupisci. Ho ridotto il passo giornaliero sempre per te. Ma era in metropolitana. Un grande Nino Taranto, lo sentite? Mario, tu che avevi previsto quello che capitava in Libia, quali sono le bolle di oggi? Sai cosa pensa di voi il mondo degli affari? Pensa che 100 anni fa qui vivevate nelle tende, nel deserto, tagliandovi la testa tra di voi, e che tra 100 anni sarete di nuovo così. Quindi sì, a nome della mia compagnia accetto i tuoi soldi. Signori, petrolio, sabbia e tribù, questo è la Libia. l'ultimo aggiornamento su Tripoli, perché gli scontri sono arrivati a Tripoli. Infatti. Nel frattempo, mentre noi avevamo annunciato lo spostamento di 200 Marines dalla Spagna alla base in Sicilia di Sigonella, è successo un po' di tutto. A Bengasi è scoppiata una mezza rivoluzione, gli scontri sono arrivati a Tripoli, ieri un raid in Parlamento, l'aggiornamento ultimo è di 2 morti e 55 feriti a Tripoli, mentre Bengasi i morti erano, almeno a ieri, 73 e 141 feriti. Sì. Cifre tristissime, ovviamente, che però aprono un interrogativo. Forse è bene fare quel che si dice un recap. Cioè? Della situazione. E cioè, nel 2011 Stati Uniti, Francia, Inghilterra, pure l'Italia partecipò all'operazione, decidono che l'era di Gheddafi è finita. Si sa, qualche volta i dittatori si fanno cascare. E fin qui, voglio dire, siamo nel corso normale della storia. Si finanziano i ribelli di Bengasi, si fa scoppiare la rivolta, danno le armi ai figli della cosiddetta primavera araba e viva la democrazia. Solo che 3 anni dopo la democrazia non c'è. Il colonnello è morto, la nuova Libia non è nata. C'è un gran casino, diciamolo. Diciamo le parole devono essere usate. Non riesce a trovare un equilibrio. La Libia è un grandissimo casino geopolitico, non c'è un governo, 3 premier negli ultimi mesi, deve giurare il prossimo, non giurerà, o se giura è una cosa da fantoccio. La guida in questo momento è un generale dissidente, Khalifa Haftar, prima gheddafiano, poi rivoluzionario, certamente uno che conoscono gli Stati Uniti perché ha vissuto per 20 anni in Virginia, ma un tiro di schioppo da Langley, la Cina. Insomma, non è proprio stata una primavera. Non è primavera, non lo è. Adesso sentiamo anche una cosa, solo una domanda finale. Per chi lavora Haftar? A me interessa questo, a questo punto. Per i 200 marine che nel frattempo sono arrivati a Sigonella. Comunque, primavera non è. Allora, Giovanni, Putin va in Cina nel frattempo. Sì. E va a fare un contrattino di cui tra un po' parliamo. C'è la supremazia nell'area del Pacifico, senti qui. Qui sono, Ivan il matto. Spegnere motori. Spegnere motori. Ogni tanto i comandanti russi, per vedere se sono seguiti, virano all'improvviso. È il cosiddetto Ivan il matto. E Putin sta facendo Ivan il matto, vira all'improvviso, tutti sono concentrati sull'Ucraina che per lui è fondamentale, ma in realtà sta andando a fare, a firmare, lui spera, perché è una trattativa che dura da più di 10 anni e c'è da fare un piccolo accordo sul prezzo, va a fare un contratto per la fornitura di gas, 30 miliardi di metri cubi di gas naturale russo l'anno per i prossimi 30 anni alla Cina. Puoi immaginare quanto gliene possa importare delle inutili, diciamo la verità, sanzioni che in questo momento Stati Uniti e Europa hanno varato sul caso Ucraina. Posso dare una notizia? Oggi alle 11.30 al Palazzo Pirelli a Milano sarà presentato il Festival Insubria Terra d'Europa, dedicato al continente Russia, dall'Insubria all'Eurasia, e a Varese dal 3 al 15 giugno una mostra fotografica Visioni d'Impero, Ivan Bianchi, un insubre alla corte dello zar. Vabbè, dopo questa pubblicità, informazione di servizio. Io prima avevo visto Beppe Grillo in redazione, sta lì? Per piacere, facciamo un po' di calma. Sta succedendo di tutti, comunque calma, ci sono ancora i seggi. Gli ultimi seggi, chissà che non succede qualche cosa. Ci sono i seggi di Lourdes e di Fatima. Bene, vediamo. Allora, stasera sapremo se sarà Grillo a essere vespizzato o Vespa a essere grillizzato. Sarà l'evento su cui si concentreranno politologi, osservatori. Ma quello che a noi interessa adesso è capire se ci sarà la gara, perché ci sarà sicuramente da parte di molti professionisti, a parte quelli che lo sono da sempre, quindi meritatamente sono antemarcia, a grillizzarsi. Certo. E quindi ad essere primi al traguardo del cuore di Beppe Grillo, perché tra una settimana, il grillismo diventerà regime, e quindi magari invitiamo i nostri ascoltatori a segnalare con un lauro, non certamente con la gogna, i migliori tra i giornalisti grillini, e intanto dedichiamo loro una vecchia canzone degli Amici del Vento. Sono un giornalista di regime, so raccontare male. alle sopraffine. Ovviamente a loro, non Gogna, verranno meritatamente premiati. A loro, a loro. A loro, a loro. A loro, a loro, a loro, a loro. Vabbè, intanto la nostra quota rosa oggi... Racconta questo se abbassiamo un po'. Signore e signori, venite, non ci si annoia di sicuro. C'è un cartellone zeppo di appuntamenti, ben 29, Giovanni. Però con il fisco ruberemo il mestiere agli acrobati. E te ne parlo, Mario, no, perché prego. Per superare questa valanga di tasse, tassette, famiglie e imprese faranno i salti mortali. A qualcuno il 18 giugno lo IUC farà venire il singhiozzo con due vecchie conoscenze, le nostre tanto adorate Tasi e Tari. E poi l'11 luglio, durante i mondiali, dovremo contare gli ultimi spiccioli per pagare le tasse. Che però state tranquilli, perché fonti ufficiali annunciano che non sono aumentate. Oh, devo leggere questo. Ho messo strada facendo perché Enrico dalla Grecia, che è un nostro assiduo lettore. Il nostro assiduo lettore che legge il Corriere la sera, deve essere l'unica copia che vende il Corriere nel quel di Larissa, dove abita lui, mi ha segnalato questo articolo che poi siamo andati a vedere, e cioè c'è un'idea di utilizzare le strade come delle future centrali solari, diciamo. In effetti si scopre che nel 90% del tempo le strade sono vuote, dunque perché non trasformarle come delle cellule in fonti di energia? Viaggi con l'auto, stai camminando, la tua auto è collegata via wireless con le cellule, ricarica le batterie dell'auto elettrica, è una meravigliosa utopia degli hippie della Silicon Valley. Ci riusciranno anche stavolta, io ne sono sicuro. Ma è bella questa, è fantastica, però voi ve l'immaginate questa straordinaria, strabiliante, unica, futuristica soluzione a Roma? Beh, Marino farà le buche solari. Canzoniere. Quale delle due cose stimi che sia più dolce? Vedere la donna amata o pensarne? Non so, certo che quando mi era presente ella mi pareva una donna lontana, mi pareva e mi pare una dea. Coteste dee sono così benigne che quando alcuno vi si accosta in un tratto ripiegano la loro divinità, si spiccano i raggi d'attorno e se li pongono in tasca per non abbagliare il mortale che si fa innanzi. Tu dici il vero purtroppo, ma non ti pare egli cotesto un gran peccato delle donne che, alla prova, elle ci riescano così diverse da quelle che noi non immaginavamo? Io non so vedere che colpa s'abbiano in questo d'esser fatte di carne e sangue piuttosto che di ambrosia e nettare. Qualcosa del mondo ha pure un'ombra, una millesima parte della perfezione che voi pensate che abbia essere nelle donne. E anche mi pare strano che, non facendovi meraviglia che gli uomini siano uomini, cioè creature poco lodevoli e poco amabili, non sappiate poi comprendere come accada che le donne, infatti, non siano angeli. Con tutto questo, io mi muoio dal desiderio di rivederla e di riparlarle. Mix 24. Beh, sono arrivati i nostri ospiti speciali? Sì. Dudu e Aiaceto Lamonio sono qui per voi. Buongiorno. C'è già in linea Dudu, poveretto, ne ha viste. Insomma, ecco, Mario, fai la tua domanda a Dudu. No, io ne approfitto. Nel weekend è successo di tutto. C'è stato un comizio di Grillo che ha parlato di Angela Merkel. E ha rubato l'esclusiva Berlusconi su questo. E Papi come l'ha presa questo scippo di un argomento del genere? Prego, Dudu. Papi sa sempre fare le cose, e riguardo alla Merkel mi ha promesso di portarmi tanti biscottini, ma Francesca, la mia mami, mi ha spiegato che c'è un rischio molto grosso, cioè che io divento grosso e poi Signorini mi fa il servizio fotografico per rovinarmi. Grazie, grazie. Infatti non lascerà mai il cerchio magico. No, guarda, io voglio sapere una cosa sola da Iace. Se il suo padrone guarderà Vespa questa sera in televisione. Apprezza moltissimo il tuo modo di fare domande. Ancora? Però dice... Cosa dice? Dice che il suo padrone non potrà vedere Vespa stasera perché sarà impegnato a fare il solito risotto che Vespa una volta gli fece preparare davanti alle telecamere e che gli procura tanta acidità. È un passatista. Terribile. No, comunque, prima di parlare con il nostro storico della televisione, il professor Simonelli, sentiamo... l'anticipazione. Quando la sera andate al pianitolo con la ragazza e state per baciarla, tremate, occhio ai busti dei garibaldini, occhio al colore, quello più scuro so io. Su, vieni qui, Milord. Noi dobbiamo molto a Falco qui, perché lui ha fissato in maniera nobile, diciamo, quelli che erano gli schemi del mondo del grande varietà, però in maniera elegante. Ecco, era Proietti che raccontava il mondo di Antonello Falqui. Oggi, con la storia curata da Marina Milone, riviviamo il mondo di un grandissimo regista televisivo, Antonello Falqui, appunto, con una puntata realizzata da Gianluca Attore e Massimo Favia. Professore Falqui, le piaceva? Un grandissimo. Falqui è stato un grandissimo. Sa cosa si dice? Il Busby Berkeley italiano. Cioè, il grande coreografo americano, dei grandi musical americani, era Busby Berkeley. Falqui rappresenta per la televisione italiana quello che Busby Berkeley ha rappresentato per il cinema americano. È un modo nuovo di inquadrare, un nuovo modo di costruire lo studio. E di curare. Una grande classe. Senta, intanto... Il canone ieri sera dov'era? Ma guardi, intanto bisogna dire che in questi due giorni il Giro d'Italia... fatto da Rai 3 ha fatto cose notevoli. Erano i giorni dedicati a Pantani, a 10 anni dalla morte, 2 tappe finalmente con il sole, e allora si è espresso al meglio quella che è la regia, le inquadrature dall'alto, l'elicottero, il paesaggio italiano, ma anche i telecronisti sono bravi, una chicca, la presenza di Beppe Conti che fa una rievocazione del passato. Insomma, la Rai non ha più molto sport, ma il ciclismo lo fa decisamente bene. Questo Giro d'Italia che presentava qualche perplessità perché c'era da sostituire Cassani, che era la seconda voce, quindi era un momento di passaggio. Insomma, mi sembra veramente al meglio la Rai del Giro d'Italia. Insomma, la Rai da servizio pubblico è quella del Giro d'Italia. Sì. Poi ieri sera posso raccontarvi una cosa, certo. Non so se l'avete vista. Nel finale di Che tempo che fa è accaduta una cosa straordinaria. Gramellini stava guardando la partita del Torino, noto tifoso del Torino, e il Torino ha avuto un rigore che gli avrebbe aperto le porte dell'Europa e l'ha sbagliato. E Gramellini ha avuto una reazione incredibile, infantile, patetica, tenera. Cioè? Mi sembra assolutamente da segnalare, perché in questi giorni in cui il tifo calcistico è stato confuso... E che reazione ha avuto? Io non l'ho visto. Stava per piangere, non riusciva più a parlare. Hanno dovuto metterlo da parte Bertolino e Fazio perché non riuscivano più a gestirlo. Allora Fazio ha detto, ma insomma, tu sei il vice direttore della stampa, sei un uomo di 50 anni. Sembrava un bambino piangente perché la sua squadra del cuore ha perso. Se qualcuno vuole dirci qualcosa sul canone di ieri sera, al di là di Gramellini, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Professore, concluda. Ecco, concludo perché questo è l'esempio meraviglioso di che cos'è veramente il tifo quando è sincero, quando non è il tifo un momento di verità, insomma, come fanno alcuni giornalisti che recitano il tifo, alcuni vittimi che vanno da Savino e fanno finta di essere tifosi. Il tifoso vero che non è Gianni a Carogna e non è neanche quello che recita. Mario? No, io segnalo che noi compriamo il gas dalla Ucraina, anzi dalla Russia passata via Ucraina, il petrolio dalla Libia, grandi dibattiti di geopolitici italiani. Noi abbiamo fatto bene ad avere ospiti fissi Dudu e Iace in studio, perché in questo momento Silvio Berlusconi ha appena detto: chi vuole fare i mali a Dudu può fare di tutto. Ha detto: chi vuole fare i mali a Dudu può fare di tutto. e quindi povero avete Gesù. Capito com'è il dibattito. Quindi anche i signorini non lo può fotografare. Non lo so, pare proprio di sì. Professore, allora... Mi spiazzate sempre perché io vi parlo di tifo calcistico e voi del gas, queste cose importanti. No, è che è importante, Dudu, il dibattito è su. Ma Dudu, c'è qualche risposta sul nostro canzoniere? Sì o no? Stiamo chiamando. Ah, quindi c'è? C'è qualcuno questa volta? Hai visto, Pietrangelo? Sì, appunto. A me sembrava molto difficile, io avevo poca fede. La letteratura si fa strada nei sentimenti. Era una È una dichiarazione d'amore, bellissima, tra le più belle. Era una recitazione. Anna, abbiamo il telefono. Anna, buongiorno Anna. Non è possibile, sono timidissima, guardi. No, non sia timida, dica la verità perché siamo in chiusura. Sì, reminiscenze scolastiche. Sì. Io mi muoio, mi fa morire, quindi l'ho buttata lì, ok? E quindi chi è l'autore? È l'autore? Torquato Tasso. No, no. Ho sbagliato, no. Mi spiace. Che peccato, no. Signora. Va bene, d'accordo. Digli chi è almeno? Allora sveliamo chi è. Sì, sono siamo in chiusura. Le operette morali, Giacomo Leopardi, il dialogo appunto di Tasso. Ma l'aveva scritto la signora? Pazienza, pazienza. No, dai, allora me l'aveva scritto. Aveva scritto le operette morali, allora ha vinto. Allora ha vinto. Un Feltrinelli. Grazie, a domani.